La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 20 novembre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Un saluto a tutti coloro che ascoltano la puntata in onda il sabato mattina e un saluto a tutti coloro che invece ascoltano la replica del mercoledì. Cari radioascoltatori, in questa puntata andremo a occuparci di medicina, o meglio ancora di genetica. Andremo ad occuparci di questo argomento parlando di epilessia, o meglio ancora di una forma particolare di epilessia chiamata epilessia idiopatica. Di questa malattia è fondamentalmente della mutazione del gene TBC1D24, se ne parla in un articolo uscito qualche giorno fa sull'American Journal of Human Genetics. Di questo articolo ne andremo a parlare col dottor Federico Zara del Dipartimento di Neuroscienze del Gaslini di Genova. Buongiorno Federico. Buongiorno a tutti. Federico, all'inizio noi abbiamo 100 parole per descrivere la trasmissione e come al solito a tutti gli ospiti faccio introdurre un pochino l'argomento della trasmissione e in particolar modo in queste 100 parole ti chiedo di riassumere brevemente il contenuto di questo paper di cui andremo a parlare effettivamente nella seconda parte della trasmissione. A te la parola. Dunque, l'articolo può essere riassunto così. Abbiamo identificato un difetto genetico causativo di una forma di epilessia rara, disordine infantile, e questa mutazione determina problemi di sviluppo dei neuroni nella parte, diciamo, iniziale dello sviluppo del cervello. In pratica è una novità, nel senso che i pazienti in realtà non mostrano alcun difetto strutturale del cervello, quindi questo difetto in realtà è molto molto sottile. Federico, ti ringrazio per la sintesi, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio come al solito. Nella prima parte della trasmissione parleremo effettivamente di che cos'è l'epilessia, come si diagnostica e quali sono le sue origini, e nella seconda parte della trasmissione andremo a parlare espressamente del contenuto di questo paper e andremo a vedere quali sono i tratti caratteristici che ha questo paper con gli studi di un altro gruppo australiano. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. We'll be right back. bentornati in studio, cari radioascoltatori, siete sempre all'ascolto di Cacciafotone. Per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, in questa puntata stiamo parlando di genetica e stiamo parlando della mutazione di un gene, in particolar modo del TBC1D24, che sarebbe responsabile dell'insorgenza di un tipo particolare di epilessia. Di questo argomento ne stiamo parlando col dottor Federico Zara, autore di un articolo uscito qualche giorno fa sull'American Journal of Human Genetics, in cui si parla appunto di questa mutazione. Nella prima parte della trasmissione noi però abbiamo l'abitudine, la buona abitudine, di dare un pochino i confini all'interno dei quali ci muoveremo nella trasmissione. E allora, Federico, effettivamente che cos'è l'epilessia in generale e come si diagnostica? Dunque, l'epilessia si manifesta con quello che comunemente sente parlare, sono le crisi epilettiche. Le crisi epilettiche però sono di diverso tipo, le più conosciute sono quelle di tipo convulsivo, ma in realtà poi le crisi epilettiche possono essere anche di diverso tipo, oppure ci sono manifestazioni di tipo diverso, ci possono essere manifestazioni di tipo uditivo, ci possono essere delle manifestazioni che, di tipo non motorio, diciamo. Quindi in realtà le crisi epilettiche sono un insieme di cose molto diverse che richiedono ovviamente una certa specializzazione nel diagnosticare. È stata già provata una loro origine genetica oppure no? Dunque, l'epilessia in realtà è un sintomo di cose molto diverse, quindi la componente genetica ha un ruolo in una parte non superiore al 30% di tutte le epilessie. Quindi faccio un esempio: possono essere trauma cranici, possono essere malattie neurodegenerative dell'anziano, possono essere problemi alla nascita nel bambino, quindi diciamo fattori non di tipo genetico. Nel 30% dei casi invece l'epilessia può essere sottesa da fattori genetici, anch'essi però di tipo molto diverso. Se noi facciamo un po' una curva di incidenza, se prendiamo una popolazione, no, per età, e la suddividiamo per età, noi abbiamo un picco nei primi anni di vita, in particolare nel primo anno, e un picco negli ultimi anni della vita. Questo perché nel primo anno di vita sappiamo che il cervello è particolarmente suscettibile alle crisi epilettiche perché è ancora immaturo. Qualsiasi stimolo particolare può determinare delle insorgenze di crisi epilettiche. Il picco che invece di incidenza che noi abbiamo nell'anziano è dovuto alle malattie neurodegenerative che ormai in gran parte degli anziani, con l'aumento dell'età ovviamente, sono aumentate le malattie neurodegenerative e quindi si ha un picco appunto di incidenza delle crisi epilettiche proprio nell'anziano. L'incidenza è abbastanza costante in tutto il mondo, quindi non è che ci sono paesi più predisposti o meno. Certamente in zone ad esempio di guerra dove aumentano di molto i casi traumatici c'è un picco ovviamente di casi di epilessia, ma è dovuto a situazioni specifiche. Per il resto l'incidenza dell'epilessia si attesta intorno all'1% un po' a tutto il mondo. Quindi Federico, per fare un attimo un riassunto di quello che hai appena detto, l'epilessia fondamentalmente non è dovuta a fattori genetici nella maggior parte dei casi, ma è dovuta ad altri fattori che tu hai appena descritto. Ora, tu hai fatto un attimo una panoramica di che cos'è l'epilessia e di come si origina, ma oggi quali sono i metodi di cura? Se ne riesce ad uscire oppure si è destinati a convivere con l'epilessia per il resto della propria vita? Anche qui abbiamo il 70-75% dei casi e noi riusciamo a controllare le crisi. Questo termine controllare è molto importante perché ci dice che non sempre noi riusciamo a curarla l'epilessia, nel senso che riusciamo a debellare definitivamente le crisi epilettiche, però riusciamo a controllarle. Ciò vuol dire che assumendo correttamente la terapia noi abbiamo la possibilità di non avere più queste crisi epilettiche. però dobbiamo comunque mantenere la terapia o per molti anni o per tutta la vita. Nel 30% invece dei casi rimanenti, purtroppo noi anche con la terapia farmacologica o addirittura chirurgica, noi non riusciamo ad ottenere il controllo delle crisi. Questi casi vengono detti farmacoresistenti. Federico, ci stiamo avvicinando a larghi passi verso la seconda parte della trasmissione e quindi ti faccio un assist per la seconda parte, in cui effettivamente parleremo del contenuto del paper di cui sei autore. Tutte le epilessie sono uguali o esistono vari tipi di epilessie con varie cause e diversi tipi di manifestazioni? Dunque, come detto, le crisi epilettiche sono una manifestazione, sintomo di cose molto diverse, e anche la stessa epilessia si può manifestare in maniera molto diversa, quindi abbiamo età e desordio molto diverso, abbiamo visto dal bambino all'adulto, abbiamo crisi di tipo motorio, che sono quelle che, per esempio, le crisi di grande male, conosciute nell'immaginario comune, diciamo, ma anche crisi completamente diverse, in cui c'è un arresto invece motorio, si vedono solo spasmi muscolari, oppure la caduta, la perdita di tono dei muscoli. Quindi in realtà sono manifestazioni molto, molto diverse, che possono esordire ad età diverse per cause molto diverse. Perfetto Federico, a questo punto intanto ti ringrazio per queste risposte. A questo punto ci andiamo ad ascoltare il secondo pezzo musicale e quando torneremo in studio andremo a parlare del contenuto del paper di cui sei autore e andremo a vedere effettivamente in che modo è mutato il gene TBC1D24. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, siete all'ascolto di Cacciafotone. Per coloro che si fossero messi all'ascolto solo ora, in questa puntata stiamo parlando di genetica e stiamo parlando in particolar modo della genetica legata all'epilessia. Questo argomento particolare lo stiamo trattando perché stiamo analizzando un paper uscito qualche giorno fa sull'American Journal of Human Genetics e lo stiamo facendo insieme al dottor Federico Zara, autore di questo articolo del Dipartimento di Neuroscienza del Gaslini di Genova. In questo paper si parla della mutazione di un gene particolare, il TBC1D24, e la mutazione di questo particolare gene sarebbe responsabile dell'insorgenza dell'epilessia idiopatica, un particolare tipo di epilessia. Ora Federico, all'inizio in 100 parole hai introdotto un pochino l'argomento, quindi ci hai detto più o meno il contenuto di questo paper. Ovviamente in 100 parole non si può riassumere tutto quanto e quindi a questo punto lascio a te la parola per introdurre il contenuto di questo paper e poi andremo a analizzarlo meglio andando a guardare anche il contenuto e soprattutto le immagini contenute al suo interno. Bene, dunque, lo studio è partito da una famiglia, perché chi si occupa di genetica in ambito, diciamo così, clinico ospedaliero, ovviamente parte sempre dai pazienti. E questa è una famiglia che viene da Napoli, in cui in realtà fratello e una sorella hanno sposato un fratello e una sorella. Giusto un po' come sette spose per sette fratelli, tanto per intenderci. E da queste due coppie sono nati in tutto sette soggetti affetti dalla stessa forma di epilessia. Ciò che abbiamo fatto è di fare uno studio sul DNA e abbiamo inizialmente identificato una regione contenente questo gene, era condivisa da tutti i soggetti affetti della famiglia e quindi abbiamo poi negli anni successivi guardato dentro questa regione che avevamo identificato, che è condivisa in questi fratelli e cugini affetti, e poi finalmente abbiamo identificato un difetto genetico, quindi che non è presente in realtà nella popolazione generale, in un gene appunto che si chiama TBC1D24 e che allora, cioè 4 anni fa, era una sigla appartenente ad una sequenza, ma la cui funzione era del tutto ignota. Ecco, di che patologia stiamo parlando? Perché l'epilessia idiopatica è una delle tante epilessie, ma in che cosa si differenzia rispetto agli altri tipi di epilessia? Dunque, questa è una forma di epilessia in realtà abbastanza rara, cioè non la riscontriamo frequentemente nella popolazione, e è una epilessia che esordisce fra il primo e il terzo anno di vita, sostanzialmente con degli spasmi muscolari. Dopodiché nel corso della vita questi pazienti sviluppano altre crisi epilettiche di tipo grande male. L'altro aspetto peculiare è che queste crisi sono favorite da stimoli di tipo visivo, che è abbastanza tipico nell'epilessia, cioè ci possono essere quindi delle stimoli esterni che favoriscono l'insorgenza di crisi e in questi soggetti lo stimolo luminoso e anche particolari pattern visivi stimolano proprio l'insorgenza delle crisi. Dopodiché queste crisi in realtà nel corso del tempo sono state poi controllate adeguatamente dai farmaci. Federico, a questo punto andiamo a fare un esperimento di comunicazione, un esperimento che abbiamo provato a fare più volte quest'anno, abbiamo fatto anche la settimana scorsa, ha funzionato e quindi lo rifacciamo anche questa settimana. Per i nostri ascoltatori, andando al sito www.cacciafotone.it e cliccando sull'immagine posta a sinistra del post di riferimento, vi si aprirà un'immagine un pochino più grande. Quell'immagine nel lavoro che stiamo analizzando è la cosiddetta figura 1. Questa immagine, come vedete, è divisa in 3 sezioni, sezione A, sezione B e sezione C. Nella sezione A c'è una specie di ramo e poi andremo a capire che cos'è esattamente. La sezione B invece, come vedete, ci sono delle curve quasi a campana di colori diversi e nella sezione C invece ci sono 2 linee di riferimento e poi andremo a capire esattamente che cosa sono. Federico, a questo punto lascio a te di nuovo la parola. Prova a spiegare come se fossi a lezione che cosa sono queste 3 figure, che cosa rappresentano e perché sono così importanti all'interno del vostro studio. Dunque, intanto questa immagine è formata da 3, no? A, B, C, da 3 figure, diciamo. Nella prima figura noi vediamo il cosiddetto pedigree della famiglia, in cui noi possiamo vedere gli ascendenti dei soggetti affetti. I soggetti affetti sono quelli in nero e gli ascendenti sono quelli posti nella parte superiore dell'albero genealogico. Come potete vedere, i soggetti neri, questa è la cosa importante da vedere, i soggetti quindi che presentano questa epilessia, mostrano i cromosomi in maniera del tutto stilizzata, colorata, e i cromosomi dei soggetti appunto affetti sono rossi e verdi. Come vedete, tutte le volte che i soggetti ricevono il cromosoma rosso e quello verde, tutte le volte appunto che c'è questa combinazione c'è la patologia, se vedete. E questo pezzo di cromosoma è un pezzo del cromosoma 16. Quindi noi sappiamo che in questa regione c'è qualche cosa. E questa è la prima fase dello studio, quello che si dice il mapping, cioè la mappatura di un gene malattia. Allora, nell'immagine B si vedono due, si chiamano elettroferogrammi, sostanzialmente sono dei segnali che ci dicono, indicano la sequenza delle basi che viene determinata attraverso il processo di sequenziamento del DNA. Ad ogni picco che vedete, sono come delle onde, ogni picco è un colore diverso. A seconda del tipo di colore abbiamo una base, quindi un nucleotide, oppure un altro nucleotide. Vedete come il picco nero c'è una G, il picco blu c'è una C, il picco verde è la A e il picco rosso è la T. In questo modo noi possiamo determinare la sequenza dei geni lungo il nostro DNA. Come vedete, a metà, diciamo, di questi due elettroferogrammi c'è una base, ci sono due basi, cioè non c'è solo la base blu, ma c'è anche sotto una base nera nella figura di sinistra B, nella B figura di sinistra, nel pannello di sinistra. Vedete che sì, in una certa regione ci sono due basi, questo perché una delle due, una appartiene a un cromosoma, l'altro all'altro, in questo punto c'è un difetto. Invece di esserci solo la G, c'è anche una C. E dall'altra parte, invece che esserci una C blu, c'è anche una T rossa. Queste sono due mutazioni che colpiscono lo stesso frammento di DNA, TBC1 di 24. E quindi questa N che vediamo nella sezione B rappresenta effettivamente l'errore? La N è un segnale, è un avviso da parte del sequenziatore che mi dice: attenzione, io qui non riesco a capire cosa c'è, perché ci sono due, invece di trovare una sola base, e in quel punto avrebbe dovuto esserci solo la G, cioè nera, attenzione che c'è qualcos'altro, qui c'è anche una C, è un segnale, e questo vuol dire che c'è un'anomalia nella sequenza. Senti Federico, un'altra cosa molto interessante del vostro lavoro, proprio quello che viene scritto espressamente a pagina 1 del vostro lavoro, è che il gene TBC1D24 era un gene prima dalle funzioni sconosciute. La mia domanda è: come avete fatto a identificare questo gene in particolare come responsabile dell'epilessia idiopatica? Una prima risposta è data dalla figura C, del pannello C della figura 1. L'unico punto di partenza che noi avevamo è questo, che si viene indicato nella figura C come TBC domain, cioè questo gene in realtà aveva, proprio per questione di sequenza, aveva delle omologie, quindi era molto simile questo gene in questa porzione, il TBC domain, ad una serie di altri geni che hanno una funzione nota, diciamo, e quindi noi abbiamo pensato che questo gene potesse avere una funzione simile proprio per la presenza di questo dominio che lo accomuna ad una famiglia di proteine, appunto la famiglia delle proteine TBC, mentre l'altro dominio TLDC è totalmente sconosciuto. Quindi il nostro punto di partenza per capire la funzione di questo gene è stato proprio questo TBC domain. Mi dicevi, Federico, nel fuori onda, questa è una cosa molto importante, che un altro gruppo è arrivato a risultati molto simili ai vostri. La mia domanda è quindi: a che tipo di risultati è arrivato questo gruppo e in che modo questi risultati sono paragonabili con i loro risultati? Dunque, forse gli ascoltatori appunto non sanno, oppure che in realtà la ricerca è estremamente specialistica e i gruppi al mondo che lavorano su un argomento sono molto pochi, e in particolare nel settore della genetica dell'epilessia c'è un gruppo molto di alto livello proprio in Australia. Quando io quindi ho trovato questo difetto, mi sono messo in contatto con questo gruppo australiano chiedendo se potesse avere altre famiglie compatibili con la nostra, e in realtà loro in effetti hanno identificato una famiglia che ha il difetto nello stesso gene, anche se non è lo stesso identico difetto, cioè non sono esattamente quelle due mutazioni, ma un'altra mutazione che cade però nello stesso gene. E quindi Abbiamo quindi condotto uno studio parallelo con loro. L'aspetto interessante è che la famiglia australiana che presenta questa mutazione in realtà ha un fenotipo, quindi un quadro clinico molto più grave rispetto alla nostra. Si tratta quindi di un'encefalopatia epilettica, quindi una forma di epilessia in cui abbiamo un grave ritardo mentale, le crisi ricorrenti farmacoresistenti e anche altri problemi neurologici. Quindi un gene che è implicato sia in forme più lievi, come nel nostro caso, che in forme più gravi, come nel caso della famiglia australiana. Il vostro studio poi è continuato, è un'altra cosa che mi dicevi nella fuori onda, è che avete poi estrapolato la mutazione di questo gene, avete visto se la mutazione di questo gene provocava una cattiva ramificazione dei neuroni, cioè una mancanza o una carenza di quei rametti attraverso i quali i neuroni trasmettono i loro impulsi elettrici, e questo è simbolo, se non ho capito male, dell'insorgenza di questo tipo di epilessia. Dunque il nostro studio è proseguito dopo l'identificazione del gene e cercare di capire che cosa succede in qualche modo nel cervello dei pazienti. Ora ovviamente noi non possiamo fare uno studio ovviamente sul cervello dei pazienti, quindi dobbiamo trovare degli altri sistemi per studiare le possibili conseguenze delle mutazioni genetiche. E allora studiamo dei sistemi cosiddetti in vitro. Sostanzialmente mettiamo in cultura dei neuroni estratti da cervelli di topo. Dopodiché l'abbiamo fatto nel nostro caso e abbiamo visto che i neuroni che riproducono il difetto che troviamo nel paziente, i neuroni di topo che riproducono il difetto che abbiamo trovato nei pazienti, in realtà non si sviluppano correttamente. Tutti sappiamo che le cellule nervose, i neuroni, si trasmettono gli impulsi e pertanto devono essere collegate con altre cellule nervose. I neuroni che esprimono queste mutazioni in realtà non sono ramificati correttamente e quindi questo circuito, diciamo, elettrico, diciamo così, non è formato correttamente e fisiologicamente proprio i neuroni hanno delle alterazioni della loro attività elettrica che si manifesta poi con le crisi epilettiche. Quindi il fatto di aver trovato che questo difetto genetico correla, determina un problema nella rete, ci ha confortato nel dire che noi eravamo nella strada giusta. Federico, a questo punto siamo ormai in conclusione di Calcio Fotone, quindi ti faccio l'ultima domanda che è in realtà la più personale di tutte. Se dovessi ricordare una cosa fra tutte quelle che hai vissuto, dal momento in cui è cominciata questa ricerca al momento in cui effettivamente questo paper è stato pubblicato, quale cosa ti rimane più nel cuore, quale cosa ti ricorderai di più nel corso del tuo lavoro da ricercatore? Dunque, io ricordo una cosa, l'inizio e la fine, diciamo. L'inizio è quando andai ad una trasmissione di Teleton proprio con una di questi pazienti e fu una signora molto spigliata, molto intelligente, e di fronte alla telecamera di Teleton, quando parlava proprio di epilessia, dei problemi, raccontò questo episodio che lei, una delle cose che le creava questo problema da ragazza, è che lei, abitando a Rimini, gli piaceva andare in discoteca e tutte le volte che entrava in discoteca a causa delle luci le venivano delle crisi epilettiche. Lei fu estremamente frustrata per tutta l'adolescenza da questa cosa. Voi immaginate, abitando a Rimini, non poter andare in discoteca. E allora, dopo distanza di 10 anni, io oggi posso dire a quella signora il perché lei ha avuto questi problemi, non poteva andare in discoteca per tanti anni, e che cosa sta succedendo e cos'è successo nelle prime fasi di sviluppo del suo cervello e qual è veramente il problema che sta dietro a tutto ciò. E questo è bello, ricordare che dietro i propri studi ci sono poi delle persone con la propria vita e i propri problemi, e che diventano poi nel corso degli anni anche i nostri, che stiamo qui al bancone a lavorare. Soprattutto, Federico, in campo medico, che è l'unico campo della scienza che ha un impatto veramente immediato con le nostre vite. A questo punto si conclude la trasmissione di Caccia Fotone di questa settimana. Saluto tutti i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori che hanno ascoltato la trasmissione sabato mattina oppure la replica del mercoledì. L'appuntamento è come al solito settimana prossima, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grande Giove.